Stavo per cominciare l'episodio prima di iniziare a registrare, ma poi voi non ascoltate la reazione dei miei soci in diretta, non mi sembrava l'ideale. Benvenuti, non dirò il numero dell'episodio perché già sia la scorsa è incasinato. Parliamo sempre di pensionati e quindi questo non mi sembrava proprio l'ideale. Allora, questo episodio parliamo di un film di Nicolas Cage, cioè con Nicolas Cage, dal titolo The Retirement Plan. Sto ridendo perché io non ho capito ancora perché si intitola così. Beh, è chiaro, Salla. Concordo in pieno. Cioè, in inglese The Retirement Plan cosa significa? Che hai un piano per pensionarti, di pensionamento. Sì, ma lui è già in pensione, cioè non ho ben capito. Il piano pensione non era per lui, però in ogni caso, boh, no. No, la cosa figa davvero è che in italiano, per una volta, il titolo è decente. Cioè, il titolo in italiano, se voi lo cercate, è Mio padre è un sicario. E okay. Ci sta. È un fatto. Ok, Salla, ti dirò quando sarà il mio momento, perché si chiama The Retirement Plan. Ok, va bene. Lasciamolo come colpo di scena. Va benissimo. Allora, il film è uscito nel 2023, credo sia disponibile forse su Prime, non mi ricordo neanche. Sì. È disponibile su Prime. Ed è stato scelto a occhi chiusi, cioè nel senso abbiamo detto facciamo una puntata su Nicolas Cage e abbiamo, cioè io in realtà è colpa mia, mi assumo tutta la responsabilità. No, in realtà la colpa è mia, voi dovete smetterla di assecondare le mie idee del cazzo. No, tu hai detto facciamo film di Nicolas Cage, abbiamo puntato uno io, ho detto facciamo Mio padre un sicario. Per la lista dei probabili film brutti aggiungo Mio padre un sicario e voi mi avete dato retta, mai più. Scusate. Ok, vabbè, no, in realtà, cioè, io non ho neanche guardato il trailer, ho detto, Nicolas Cage, The Retirement Plan, perfetto, facciamo quello, ho visto solo una foto di lui con la barba bianca e i capelli bianchi lunghi, ho detto, col camiciotto da bowling, ho detto, è incredibile, dobbiamo per forza guardarlo, e quindi ero d'accordissimo. E allora, sono contento di averlo guardato. Vabbè, intanto di cosa parla il film. Il film parla di una coppia e come introduco questo film? L'incipit narrativo fa abbastanza ridere. Vabbè, allora, diciamo che c'è questa coppia, questa famiglia, lui, lei e una bambina, e il marito in realtà si vede poco, si vede solo che il marito arriva alla macchina mentre c'è questa scena tipo un furto in cui c'è questa ragazza, signora, persona che aspetta in macchina, si sentono degli spari e arriva quest'uomo che scopriamo essere il marito di questa qua al volante con il suo amico ferito e gli dice di scappare via appena stato fatto bla bla bla, il mio amico è ferito, il suo amico muore diretto. Tutto ciò che noi sappiamo è che il marito dà alla moglie questa chiavetta USB e dice tieni, proteggila e scappa perché siamo in pericolo. Al che la madre, cioè la moglie va a casa, prende la bambina e dice scappiamo e scappiamo alle Cayman. Cioè questa era l'idea. E nasconde la chiavetta nello zaino di questa ragazzina. Insomma, solo la ragazzina va alle Cayman perché, boh, vabbè, il problema è abbastanza ridicolo. Diciamo che volevano dare un pretesto narrativo e quindi la bambina arriva alle Cayman e alle Cayman gli viene detto che deve andare a cercare suo nonno che non ha mai visto. E suo nonno è Nicolas Cage e questo è tutto il l'incipit narrativo. E si scoprirà poi che la chiavetta è stata rubata a un mafioso o comunque uno nella mafia e quindi che la vuole riprendere eccetera eccetera, e poi c'è il solito film del cazzo che conoscete già e dico così poi dopo capirete perché. Basta, non c'è nient'altro da dire tranne che il cast non solo a Nicolas Cage ma anche Ron Perlman e E ha degli altri attori che in realtà... Ah no, e ha Ernie Hudson, che è quello... Come cazzo si chiama, dai? Che ha fatto... Ghostbusters. E basta, gli altri attori sono abbastanza dimenticabili, mi pare. Io non conoscevo quasi nessuno, tranne la tizia di Twilight. Che poi non è la tizia, è la tizia che... Una delle tizie che ha fatto Twilight. E basta, non devo dire nient'altro. E devo anche dire che la questo film è costato un sacco di soldi e non ne ha incassati. Ed eccoci qua, Salla, al motivo per cui si chiama Retirement Plan. Perché è il Retirement Plan di Tim Brown. Questo film. Cioè, questo film è stato i soldi del pensionamento. Lo so, appunto. Cioè, lui ha preso, in realtà, il budget che c'è scritto. C'è scritto che il film è costato... Cioè, andate su Wikipedia. Vabbè, Wikipedia non è una fonte affidabile, però c'è scritto che il film è costato meno di 20 milioni. Secondo me, il motivo per cui è scritto lì è che lui ha detto ai tizi, ai dirigenti, oh, questo film è costato meno di 20 milioni, come per dire, ne ho spesi molto di meno. In realtà ne ha spesi tipo 19.999.000 e se ne è presi lui, a parte quelli che ha pagato per Nicolas Cage. Secondo me questo è il motivo per cui si chiama così, che se tutti i soldi della produzione se li è presi lui. Può essere, cioè, a questo punto potrebbe essere, visto la merda che è uscita. Esatto, vabbè, ci arriviamo, scusa, vai avanti, adesso ci arriviamo. Ah no, io non devo dire nient'altro, no, vabbè. Ah, in realtà io sono stato molto felice di guardare questo film, poi vi dico anche perché, per un motivo che non c'entra niente col film. E, il film è la formula solita dei film action anni 2000. Vabbè, detto così sembra che sia una roba vecchia, in realtà è molto simile anche al film di Jason Statham di cui abbiamo parlato settimana scorsa, cioè qualche settimana fa, tranne il fatto che lui non è, cioè non sta lavorando, ma è fondamentalmente pensionato. Il nonno è sto sicario incredibile che lavorava per il governo e quindi lui ammazza la gente di fatto e protegge la nipote, la madre, cioè la figlia madre. Insomma, cioè, è un po' il solito film. È girato un po' come venivano girati appunto i film degli anni 2000, sembra un po' uno di quei film di Bruce Willis quando è diventato famoso, no? Tipo quello, com'è che si chiama? FBI Protezione Testimoni si chiama in italiano. E, vabbè, sembra un po' uno di quei film lì e basta. Come si chiamava in inglese? Boh, vabbè. E non volevo dire nient'altro a parte appunto i dettagli. Quindi no, ditemi voi appunto se vi è piaciuto. Non credo, ma insomma, cosa ne avete? Orribile. Beh, sono d'accordo. Perché orribile, Andrea? No, non lo so, a me non è piaciuto quasi niente. Quasi niente, non lo so. Mi è piaciuto un po' Ron. Sì, esatto, che quello è il motivo per cui sono contento di averlo visto, sì. il pezzo tra di Bobo e la bambina è stata la cosa più bella del film, forse. E tutto il resto, niente. Sono d'accordo. Un film alla Statham che non... Sì, c'è una cosa da dire, secondo me, cioè una cosa importante, che Nicolas Cage non è adatto a questo ruolo, cioè... Esatto. E questi film qua hanno raggiunto, cioè sono diventati, diciamo, famosi per attori vecchi, poi vecchi, tra virgolette, nel senso che comunque erano qualche anno fa, quindi erano, sì, un po' avanti con gli anni, che hanno fatto film d'azione nella loro carriera e... hanno voluto continuare un po' per gag, cioè un po' non si prendevano sul serio, un po' sì, per fare questo tipo di film. E appunto Red, che abbiamo citato settimana scorsa, è uno di questi, cioè è un film action in cui hanno preso gente avanti con gli anni, tra cui appunto Bruce Willis, per fare... per prendersi un po' in gag, cioè non è che... Nicolas Cage è troppo serio per questo tipo di ruolo. Cioè... O meglio, si prende lui stesso troppo sul serio per questo tipo di ruolo. Al contrario, Ron Perlman, che interpreta Bobo, Io spero che nel mio immaginario lui ha improvvisato la sua parte in questo film, perché non c'entra un cazzo col resto del film. E lui è uno degli uomini del mafioso, ma non è il capo degli uomini del mafioso, è un uomo uno degli uomini del mafioso qualsiasi, semplicemente lui è molto grosso e quindi ha tipo spicca un po', e poi lui ha più presenza scenica, però non è che dicono lui è il comandante, fate quello che dice lui, no, è uno degli stronzi, però il suo personaggio è incredibile, cioè lui dice tipo 10 battute, ma sembra preso da un altro film, cioè lui è quello che è stato allevato, orfano, eccetera, che conosce i classici della letteratura inglese, cioè... Non so, non c'entra, sembra non c'entri la serie del film. E infatti finisce anche in modo stupido, cioè nel senso la sua linea narrativa poi finisce a un certo punto, perché lui muore, spoiler, e però per nulla, cioè non è che abbia un significato, non c'è lui che fa un monologo mentre muore, proprio muore in modo stupido, quindi mi piace pensare che le parti prima lui le abbia improvvisate, poi il regista ha detto, vabbè, che sai cosa, non me ne frega un cazzo, a me di ste stronzate. Boh. E sono contento di averlo visto, perché appunto la sua parte, cioè, è assurda. Poi detto così sembra un Oscar. No, è una puttanata comunque, però rispetto a tutto il film. Sì, sono d'accordo. Cioè, lui davvero sembra, non so, anche visto il finale, buttato lì a caso, improvvisato. Fai tu. Sarebbe stato bello un film su loro due, cioè su lui e la bambina. A un certo punto io pensavo sarebbe andata così, poi vabbè, molto presto questa cosa si è... Tra l'altro c'è anche Rorschach, che è Donnie, l'attore che fa il mafioso, è l'attore di Rorschach. Sì, di che però è terribile. Terribile in questo film. Devo dire che questi famosi meno di 20 milioni di budget non so dove sono andati, perché cioè è tipo Michael Bay al contrario. Michael Bay prende 30 milioni e te li fa sembrare 300, questi sembrano 2 milioni, non 20, cioè è proprio, non so, mi sembra tipo Sharknado come qualità, diciamo, di produzione, ma senza gli squali, quindi dici, non c'è neanche la parte di fantasia di cazzaraggio, non so, di... Anche perché è palesemente tutto girato nello stesso posto e loro dicono siamo alle Cayman, ma in realtà no, cioè è un capannone sulla spiaggia con un cioè è chiaramente tutto girato lì. Veramente allucinante. E posso dire uno dei finali più precisi, cioè precisamente adattati dal finale della serie di Boris, quello lì, Gli occhi del cuore, dove tutti i personaggi dicevano: ah, è vero, ho capito, adesso il conte, era il conte, il padre del conte. Cioè, il finale è una serie di colpi di scena che neanche mi ricordo, di persone che arrivano e spiegano, e poi arriva un altro, cioè, poi arriva un altro che gli spara, quello muore, e lui comincia a spiegare. Allora, adesso... Cioè, tipo 3-4 volte! Direi... Allora, con questa idea guardatelo in compagnia. Sì. Perché la cosa positiva di questo film è anche che non dura tanto. E che io mi sono sorpreso perché ho visto che poi vabbè si ricollega a quello che dicevi tu, Jacopo, che praticamente lui stava cominciando la scena finale, no? La scena finale in cui sappiamo in questi film arriva lui e spara a tutti, no? Fa l'incursione segreta. E guardavo quanto mancava al film, mancavano tipo 10 minuti. E mi sono chiesto, ma scusami, con i titoli di coda e tutto, come fa a rientrare nei 10 minuti? E il motivo è quello. Il motivo è che poi cominciano a parlare e a spiegare le cose, ma finisce subito. È veramente bello il finale, in effetti. Sì, per Bobo è il finale, guardatelo. No, vabbè, io sono scandalizzato. Questo film ha veramente messo alla prova il mio amore per Nicolas Cage. Diciamo che perdura, ma solo perché è incondizionale. Se fosse un amore condizionale sarebbe finito. Sì, diciamo. Qua va male male. Però questo mi ricorda che Amazon ha deciso di spendere un po' di soldi su di lui. Quindi se voi avete Prime e pensate o avete pensato di guardare questo film, voi ora vi fermate e cliccate sul talento di Mr. C, che è incluso con Prime. Ok. Cioè, credo che l'abbiano comprato proprio adesso. Sì, è molto meglio quindi, di questo film. Eh sì, è un film vero. Cioè, ed è più in parte Nicolas Cage, perché fa la parte appunto di... Cioè, lui non riesce a essere autoironico davvero, cioè comunque deve essere... lui ha questa qualità, per cui se il film è una merda, lui comunque è serio. e in realtà per alcuni film è una qualità, perché pensate a quello come lì... Come si chiamava Ghost of, quello lì nel deserto, strano. Esatto, sì, sì. Ma anche quell'horror lì con Willy, quello che entra dentro e spacca tutto. Ah beh, certo, vabbè, sì, sì, quello... sì. Cioè, il fatto che lui Willy, sia serio... Willy's Wonderland, è Willy's Wonderland, grande. Ma pensavo Mandy, un attimo. Anche Mandy, cioè, il fatto che lui sia sempre serio, è comunque una qualità. Cioè, lui ti riesce a portare a casa un film che, se no, sarebbe una vaccata clamorosa. Però in questo film, che è scritto apposta per essere una puttanata, lui non brilla tanto. Cioè, oddio, brillerebbe se fosse tipo la pallottola spuntata, cioè... qualcuno che è stupido, che viene... Sì, sì, che il suo, l'intorno, diciamo, tutto intorno è una stronzata. No, invece qua è lui stesso che dovrebbe fare puttanata. Ricordate il jiu-jitsu! Jiu-jitsu! Cazzo, è vero! Ma però uno dei più belli che abbiamo visto, secondo me, con lui è Pig. Che abbiamo fatto la puntata, perché quello è molto bello. Che è serio, però. Sì. E anche quello poteva sfociare facilmente in stronzata. Vero. Comunque, allora io... vabbè, vi dico appunto, su Prime ci sono tanti film di Nicolas Cage belli, ok, tanti no, però c'è sia Mandy, che è bello per un motivo sbagliato, sia Il talento di Mr. C, che è bello perché è bello davvero. Quindi delle due guardatevi questi. Ma... comunque volevo far notare che è la seconda puntata di fila in due settimane dove consigliamo un altro film da vedere invece che di quello che abbiamo visto. Tecnicamente la terza, perché no, non di fila, perché in effetti quello di Statham aveva consigliato, vabbè, uno dei due che però... Faccio una proposta. Il prossimo film che vediamo deve essere bello, o almeno ci dobbiamo provare a fare un film bello stavolta, perché non ci abbiamo provato. No, quindi è vero. La prossima settimana vi promettiamo. Sì. Già so che me ne pentirò. Esatto. Già so. Non lo so, vedremo. Vabbè, adesso finiamo questo episodio, registrare questo episodio, ci mettiamo lì e rimaniamo in chiamata finché non troviamo due film belli per due episodi. Va bene. Va bene. Andatevi a vedere Il talento di Mr. C. com'è che si intitola in inglese? Unbearable yes. Massive Talent. È vero, The Unbreakable coso di Massive, vabbè, sì, ok, quello. Ma dopo l'Alzheimer davvero. Questo Unbreakable, quindi Bruce Willis. Unbreakable, no. Città. Va bene. Grazie per aver seguito e ci vediamo settimana prossima con un film bello. Questa è la promessa. Ciao. Ciao.